ci sono? Sì, ci sono. Ah, ok. Però prima l'ha già seccato. Cos'è questo stato? Non ho capito. Lo stazionario, alla prima l'ha già seccato. Sì, beh, sì. No, era già acceso. Qui era già acceso. Tu stessi che accendo il TMR e chiamo Franco. E dunque siamo qua. Sono finito adesso, finito. E metterò sul passo. Ok. Tutto a posto, tutto finito completamente? No, volevo solo tirare su il palo perché pesante, non ce la faccio da solo. Aspetto che viene mio cognato. Sarà anche sabato, va. Ah, ok, ho capito. Va bene lo stesso. Non c'è problema, qui arrivi sparato lo stesso, non c'è problema. Sì, l'antenna è tutta passata, il palo di terrazza. È molto più bassa, è già 6 metri più bassa, dai, il palo. Sì. Sicché hai già fatto tutto, stazionario, tutto controllato? Sì, l'ho fatto a 10 centimetri dal bellone della spirale. Di sotto, 10 centimetri da sopra a sopra. Perfetta. Sì, voglio dire, hai già controllato con loro tutto quanto. E una cosa, il capo l'hai cambiato, come avevi detto che mettevi il capo a Camille lì? No, non l'ho cambiato, mi ha toccato di scendere un altro palo e un'altra antenna e ho fatto un'altra volta quello lì là. Non è che sia... poi devo cambiare i piedi, devo cambiare, un bel lavoro c'è lo stesso. Ho capito, sì. Non è importante, va bene lo stesso, anche 213 va benissimo. Sì, poi sono capi nuovi, li ho messi tutti e due insieme, li avevo comprati tutti e due da Fusari, li avevo preso. Sono nuovi quindi, non, quelli non c'hanno neanche... no, tutte l'antenna c'hanno, sì. Ok, sì, beh, c'è. Allora, poi quelli durano, quelli durano la vita, quei cavi lì. È difficilissimo quelli. Quelli ti do 30 anni, anche di più. Per cui sono isolati bene, poi hanno il doppio rivestimento e a voglia. Vanno benissimo quelli. Quattro rivestimenti, la quattro rivestimenti a due. Non metto dentro un tubo di quelli lì, di tubi uccisi, quelli coronati che usano gli elettricisti, ma non di quelli che usano per casa, no. Siccome proprio brutti. Ho capito. No, io no. Anche io avevo detto di fare così, ma poi ho fatto, ma non c'era bisogno, questo cavo quando si distrugge. Adesso ce l'ho già diversi anni, ma anche da poco ho guardato ed è perfetto, intatto, proprio lo. La Camille non è così semplice a distruggerlo. Ma io gli ho protetto, io, ma chi è questo? Propagazione questo, Franco! Fatto fa! Io sto già schiacciando, 27, sto schiacciando, mi senti? Perché tu non hai continuità, Tu mi senti anche 27, io adesso non so se in questo momento mi stai ascoltando o dal PMR o dal 27. Non hai continuità, distrai, quello è il coso che ti ho detto, quello lì è. Hola 10. Hola. Franco. Ehi Merck, come va? Oggi meglio, ieri male, veramente ma veramente male. Sono andato solo a salutarti perché sto trafficando in cucina. Ok, dai, un buon proseguimento. Ci entrerà qualcuno a breve. Capo, sono contento che tu stai meglio. Non sapevo cosa avessi, quindi portate a quello che ti sei ripreso. Buona cucina allora. Ciao Franco, ciao. Ciao. Allora, scopriamo un po'. C'è qualcuno sul canale 10? Ciao Giulio. Ciao Franco. Tutto bene? Io sì, e tu? Ritirato? Sì, tutto a posto fra. Va bene così. No, stavo parlando con Franco di Sorso, che purtroppo ha un problema all'antenna, non può modulare. Vabbè, pazienza, stavo parlando con lui in PMR. E cosa gli è successo? Le sono salite in stazionario, le sono salite e dunque è un problema elettrico, perché non ha continuità, PL, bloccando un PL contro con lo stivo centrale, non ha continuità, dunque è un fatto elettrico. Cosa c'ha la manta faccia? Che antenna? È la matova tubo che l'ha dovuta sistemare, però purtroppo non c'è quel contatto che è necessario, allora sono salite le stazionarie. Sì, perché quella lavora in corto, dai, come la mandava uno, quindi sicuramente c'è qualche problema su o nella bobina, si è staccato qualche cosa. È quello che vi ho detto io, sicuramente ci manca il filo che c'è all'interno della calotta, è successo che non fa contatto con lo stilo centrale. E poc'anzi stavo uscendo solo con la massa, stavo uscendo, perché poc'anzi abbiamo parlato per un paio di minuti, il 27, però poi verso salite di colpo le stazionarie evidentemente gli si era interrotto il contatto. Sì, da buttare giù. Sperando che non sia complicato, dai. Eh beh sì, è un lavoro un po' complicato perché l'antenna la deve buttare giù, ma già c'è la bassa in questo momento, solo che devo aprirla adesso, è già sul sistema, già è capace, Franco, già in gamba. No, dico, l'importante è che non sia disagiato salire sul tetto, se uno c'ha un ferrato va su e lo fa tranquillamente, occhi chiusi. Il problema è se, come per esempio da me, che devi aprire il tetto, tegole, cose varie, allora diventa un po' più complicato, oppure se c'hai un palo in facciata, messa in una scala aerea, non lo so come le sue condizioni, come siano. No, è una posizione molto molto comoda, è interrato, per cui non ha di questi problemi. È come camminare dentro casa, perché c'è il terrazzo, per cui lui l'antenna ce l'ha lì. È più facile di così è possibile. Magari invece anch'io così, avrei messo anch'io sul tetto l'antenna, porcaccia la miseria. Comunque, tutto bene Giulio? Sì, tutto bene, fa, tutto bene. Sì, sono andato l'altro giorno a portare i risultati dal dottore che mi stava seguendo, e mi ha detto tutto bene, dice. Naturalmente devo sempre finire il ciclo di tutta la terapia totale, ancora ne ho un annetto, ma di tre mesi in tre mesi però, cioè visita e controllo, così di tre mesi in tre mesi. Vabbè, piano piano si fa tutto, dai. L'importante è che sia andato tutto bene. Bene, veda. Adesso stiamo usando il K adesso? No, non è ancora arrivato, non è ancora arrivato. Stiamo aspettando che arrivi. Ancora, sempre con col Cobra sto uscendo, col Cobra 139, la stazione base. Con 3 watt, come da una cosa del genere, 3 watt e mezzo, là, più o meno così. E il microfono è sempre l'MB4, che in questo momento è a 3 come livello di amplificazione. Ma già va bene anche a 3. No, già va benissimo, perché se aumenti troppo rimbomba e non è chiara la modulazione, così va bene. C'hai i picchi positivi che passi da 8 vai a 9,95. A voglia, va benissimo. E tu mi stai arrivando intorno al 9,15 in questo momento. Sto usando un pochettino di vitamina comunque. Già l'ho visto, già l'ho capito. Ma per dire, però è pulitissimo alla radio, non sembra che ci sia niente di come rinforzo, come se non ci fosse, va benissimo. Perlomeno questo switch sta segnando così, intorno al 9,15, con un'oscillazione di picchi positivi bellissimi, va benissimo. Sì, ho preferito abbassare la potenza dell'apparato, anche se perdo, non so, anche 100 watt di potenza, però non è risente la modulazione, anzi rimane la stessa, così mi hanno detto e così l'ho lasciato. Quindi anche se, ripeto, invece di uscire con 200, ne esci con 100, 150 va bene lo stesso. Certamente sì, perché se gli dai troppo ingresso allora incomincia la saturazione, mentre invece così va benissimo. Quando gli dai di ingresso 5-6 watt, ma esagerando, siamo già a 6 watt e comincia a essere già tanto, se non di solito si dovrebbero usare 4-5 watt di ingresso, e poi la resa vuol dire se prendi qualche watt da lineare non è importante, è interessante che la radio rimanga sempre bella, pulita. è così, infatti è bella, pulita, ma proprio veramente bella. Sì, no, anch'io preferisco così. Vediamo un po' i watt, quanti sono? Sono 5 watt, l'avevo portata a 5 watt staccati, dai. Sì, appunto è quello che ti stavo dicendo, perché se incomincia ad aumentare allora c'è più pressione nell'alimentatore e allora incomincia il posto, vabbè, magari può darsi che se la metti anche a 6 va bene lo stesso, però non bisogna esagerare più di tanto, vuol dire perderai qualche decina di watt in amplificazione, ma cosa te ne frega, l'interessante è che la radio sia sempre bella pulita, che poi è ultima veramente, molto bella e chiara. Sì, io preferisco sì, una buona modulazione piuttosto che il segnale magari più forte, 9,20, però la radio magari inizia a strappare, a saturare, dai. Va bene, no, comunque anche quell'apparecchio c'è bene qua, per essere un vintage, caspita. Sì, è vecchissimo, è vecchio, sarà degli anni 70, questa è la cosa, infatti non ha nemmeno la banda FM, non ce l'ha, è solo banda laterale AM, che poi non so nemmeno quanto può funzionare bene la banda laterale, non te lo so dire, ma comunque non fa niente, intanto la uso solo così, provvisoriamente, quanto sta a arrivare poi la radio, che dovrebbe arrivare questa settimana, penso che arrivi, non lo so. Perché è già in Sardegna, dovrebbe essere a Cagliari, dovrebbe essere, però sai come la lentezza dei trasporti qui, non hanno certo la velocità che ha Amazon, aspetta, tu ordini oggi, fin domani hai il materiale. Sì, lo so, a volte fa più in fretta la roba arrivare dalla Cina piuttosto che da Cagliari magari. Purtroppo è così, lo sappiamo, è così, cosa ci vuoi fare? Aspettiamo, dai, poi tanto un giorno più, un giorno dopo è uguale, non è che cambia la sostanza, non è che cambia molto, anche perché l'avevano spedito giovedì scorso, però devi considerare che c'era sabato che non si lavora, che poi tra l'altro era anche festa del lavoro, primo maggio, poi c'era la domenica, sicché sono già due giorni persi, siamo praticamente da giovedì, siamo già al quarto giorno, dovrebbe essere oggi, ma togli nei due giorni tra il primo maggio e la domenica, praticamente il risultato è sceso a due giorni lavorativi, praticamente due o tre giorni, dai. Ah sì, dai, l'importante è che lo trattino bene, che nel trasporto non ci vuole fretta su queste cose. Che ore sono le? 18:50, vuol dire presto ancora, dai. Sì, 18:50, 51 per esattezza, dai, è qualche secondo. Sì, e vabbè, comunque, bene, vediamo se entra qualcuno, non lo so, perché poca gente sta entrando la sera, magari la sera più tardi, verso le 7, allora è già incomincia a esserci qualcuno in più. Stamattina c'era anche qualcun altro, c'era Gianni Bloffetta, poi c'era Eugenio da Porto Torres, sono entrato anch'io 10 minuti, proprio, e c'era anche Claudio 10 minuti, anche lui c'è stato, non di più, e per cui va bene così, pazienza, dai. Già ci sentiamo, ci siamo sempre comunque, siamo sempre i soliti, però ci siamo, e quello è importante. Sì, ma Claudio Salviero? Sì, si è messo l'antenna, ancora non è sistemato al 100%, però è in fase di assestamento e dunque lui già ha ancora da fare, sai, con questo fatto dei traslochi, già lo sai quanto lavoro e quanto sacrificio ci vuole per il trasloco, perciò prima di pensare al baracchino ha sicuramente altre cose più importanti, poi già si sistema in maniera definitiva e allora lo sentiremo anche tutti i giorni. Brecco. Registrato. Sì, perché l'altro giorno stavamo modulando con un antennino intero, ma qui lo sentivo a malapena. Va bene, avanti il break. Sì, ciao Franco, ciao Giulio, ben sentiti tra tutti e due, va avanti giù. Ok, ciao Roberto, ben arrivato. Sì, stavamo appunto chiacchierando con Franco da nemmeno 10 minuti. Va bene, avanti Franco. Sì, K. Ciao Roberto, ben sentito anche a te. Spero che le cose vadano bene anche da parte tua, sì, riprendi Roberto. Sì, sì, non te la lamentarsi, a parte tutto questo cacchio di confusione del Covid, nel complesso già va bene, è un po' stanco, assonnato, però non ci lamentiamo, dai, c'è gente che sta peggio di noi. Ma sì, noi siamo più fortunati che abbiamo ancora un posto di lavoro. È quello importante, dai. Avanti a te Giulio. Ok. Certamente sì. Quello già è vero. Lui il lavoro ce l'avrete, io è come se ce l'avessi anche, perché ho la pensione, per cui però c'è tanta gente, bisogna purtroppo pensare anche a quelle persone lì che hanno veramente molte ma molte difficoltà, anche perché chi sta ancora lavorando non ha pensione, non ha niente, per cui ha dei problemi sicuramente tanti, tanti tanti. Per non parlare poi degli artigiani e dei commercianti, anche loro, soprattutto chi paga affitto molto, molto alto, e quello è un danno grande se non si lavora, ma comunque speriamo bene, cosa vuoi che ti dica. Avanti fra. Sì, tu pensi che sei stato già in pensione con la vecchia legge, invece sono 40 anni che lavoro e ancora mi tocca battagliare. Avanti Roberto. Sotto questo cazzo di pensione ogni tanto già ma nella legge chi sono quelli fortunati l'hanno già presa, e poi c'è gente che deve fare 4-5 anni di più di quegli altri che l'hanno già presa perché hanno cambiato una legge. Guarda, da lui è come si dice, la carota davanti all'asino, tenuta con un bastone, sembra che riesca a mangiarla ma va sempre avanti a lui, non riusciamo mai a prendere questa carota. Lo so, speriamo di arrivarci tutti, dai, vivi e vegeti. Ma sì, dai. Beh, Giulio ha già dato per lavoro, quindi Giulio si sta godendo la sua pensione, giustamente, avanti giù. Ok, sì, infatti. Sì, la carota quando si allontana sempre di più diventa quasi irraggiungibile, e sono proprio gli ultimi anni quelli più pesanti, però prima o poi cioè, si raggiunge anche quella posizione lì, non c'è problema. Tutti quanti ci arrivano, grazie a Dio, quello è possibile. Ma è così, la vita purtroppo è così. No, io stamattina ho detto, adesso io la mattina non mi alzo più presto come prima, per 60 anni e oltre mi sono alzato sempre presto la mattina, adesso invece la mattina rimango a poltrire un pochino a letto, perché di solito mi alzo tra le 9 e meno 4 alle 9. Non è poi così tardi, però non è nemmeno presto rispetto a come quando lavoravo, come dovevo alzare per essere alle 8 sui posti di combattimento. Avanti, vabbè. Vabbè, quando sono abituato poi a alzarti anche io la domenica, dico non vedo l'ora, c'è la domenica, che così mi rilasso domani, sarebbe sempre, a parte io dormo malissimo, pochissimo e sono interrotto. Poi dico, domenica me ne sveglio a mezzogiorno, domani, alle 6 sono già sveglio, ti rimani magari nel letto, poi piano piano ti stanchi anche di stare nel letto e te ne alzi. E anche io sono così, Roberto, e anche io sono una vita, mi alzo 6:30, tranne una volta a settimana, cioè una settimana ogni mese mi alzo verso, se ho il turno di mattina verso le 4, perché devo essere Alghero alle 5:20. E non riesco a stare a letto, io mi sveglio sempre alla stessa ora, anche se non lavoro la domenica, purtroppo l'abitudine è quella lì. Avanti giù. Ok, sì, in effetti l'abitudine, guarda, è tremenda tante volte. Ad esempio io adesso che non ho nessun impegno di lavoro, che posso rimanere quanto voglio a letto, però la mattina a 5:30 sono già sveglio. Poi rimango a letto, giustamente, tanto cosa faccio, mi alzo a quell'ora. Soprattutto l'inverno, quando c'è freddo, piace anche rimanere a letto. Magari adesso che andiamo incontro all'estate, che alzare perché sono io alle 9, mi alzo magari alle 8, sicuramente farò così, perché se no cosa ci sto a fare a letto quando c'è caldo, non va bene. Ma come non va bene la mattina quando c'è freddo alzarsi molto presto, e chi me lo fa fare, visto e considerato che ho tutto il tempo di rimanere a letto quanto voglio. Avanti, va bene. Infatti l'immagine d'inverno è più, c'è più freddo, deve neanche la cosa di alzarti, il freddo ti blocca i movimenti, cioè dai, me ne vengo con il calduccio. Fra, mi ha detto vai ad Alghero una volta ogni settimana? No, una settimana al mese, mi tocca un lavoro particolare, se ho il turno di mattina mi devo alzare alle 4 perché alle 5:20 devo essere lì presente. E una settimana mi tocca sempre al mese di sera. E allora ho il turno di sera che finisco alle 10:30 di notte, quindi arrivo qua che sono già alle 10:30. Ma il tuo lavoro effettivamente in cosa consiste? Io non l'ho capito. No, vabbè, quello non fa parte proprio di un lavoro, diciamo, straordinario, quella settimana che faccio in più al mese, capito? Non c'entra niente col mio lavoro, però non è che non c'entra niente. Io faccio un'altra mansione, però quel tipo di lavoro lo faccio come extra. Ho capito, mentre quando fai quei turni notturni è sempre il tuo lavoro? No, non è il mio lavoro, però diciamo sempre nell'ambito ferroviario, capito? Diciamo che sto coprendo il posto di una persona che manca, un'altra mansione, però va bene che almeno arrotoliamo un po' a fine mese, capito? Dice, ho capito, vai a te Giulia. Ok, sì, beh certo, va bene, così almeno qualche cosa in più poi nella busta paga uno se ne trova, visto considerato che fai così. E bene, sono contento per te Fra, così almeno realizzi sempre qualcosa in più. Naturalmente è sempre più sacrificio, però senza sacrificio purtroppo non si va da nessuna parte, questo è più che scontato. Bene, avanti vabbè. Che ci dici adesso? Cambiamo argomento, parliamo di altre cose. Che radio stai utilizzando tu, Franco? Ti ho ascoltato l'altro giorno, io c'ho una radiolina, l'ho detto anche a Giulio, ho fatto un pacchettino di sigarette anche più piccola, c'ha un'antennina sua, ma ti ho ascoltato con quella radio che sta uscendo adesso, una bomba, ti sentivo in camera mia, infatti ho toccato ogni radio. È sempre il solito, è Samurai, anche questo anni 70-80 penso che sia, sì. E lo ciura sempre il solito microfono, tutto qui. Bellissima, una delle più belle in assoluto qua, poi pulita, non hai difetti, nel senso è inutile, c'è una radio da bombardamento distorta, questa è proprio perfetta, non ho niente da dire, una delle più belle che piacciono a me, perché ce ne sono tante che qua non si capisce cosa dicono, dice ah cosa hai detto, ripeti a te, una telefonata come può essere Giulio, lo stesso come c'è lui. No, questo microfono mi ha sempre dato ottime soddisfazioni. Ormai anche se è vecchietto, ma qui mi stanno già chiamando, qui hanno già fame, ragazzi, vi devo lasciare, così mangiamo un po', anche se un po' presto, però almeno mangio qualcosa di caldo, ok? Un abbraccio a tutti e due, ma se siete ancora tra una mezz'oretta rientro, ok? Ciao, buona carica, grazie, ci siamo, ben volentieri, avanti a te Giulio. Scusate che mi ha salutato uno, ciao Natalie. Ciao bella bella! Via dai, time out un attimino, faccio carico batteria, pit stop al volo, dipende Giulio, scusa. Oh, figurati Fra, ciao Fra, a dopo eventualmente se coincide di nuovo, dai. Ciao Natalino, ben arrivato, ti lancio subito il microfono. Sì, ma è così, Roberto, ne stavamo parlando poc'anzi della radio, infatti glielo ho detto che ha una bella modulazione, bella, presente, chiara, pulitissima, proprio al 100%. Stavamo parlando anche a riguardo della potenza di ingresso per un eventuale alimentatore lineare, eccetera. Stavamo parlando di quello. No, ha un'ottima radio, veramente, Franco, un'ottima radio. Non c'è che dire. Avanti, Natalino non riprende, avanti, vabbè. Natalino ogni tanto appare e scompare, è uno spettro. Ebbene Natalino. Sai cos'è, Roberto, ha sempre quel problema Natalino lì. È chiaro, fa un piccolo intervento e basta, ma non più di tanto, perché il problema è sempre presente, per cui no. Magari la mattina può fare qualche passaggio in più, ma la sera a quest'ora quando c'è da guardare la TV, e allora si sa, lui si limita anche per quello. Mi dispiace, per quanto era appassionato Natalino, è uno dei primi che ho sentito Natalino quando stava nell'altra abitazione, usciva molto bene, forte, si faceva sentire anche adesso, l'ascolto bene, però purtroppo deve limitarsi. Ecco. Sì, beh certo, prima usciva che era una bomba Natalino dalla zona dove abitava prima, poi rispetto a te, lì in linea d'aria praticamente siete a un tiro di schioppo, siete, perché tutti e due in altura, e cosa c'è dal monte alto alla zona dove sei tu, è proprio un tiro di schioppo veramente, vabbè. Per cui lì io non credo che arrivava bene, ma arrivava bene anche qua da me, che è più lontano, eccetera, io non credo. Avanti Eugenio con la buonasera. Se, mi sembra che sia Eugenio, è boh. No, sono un nuovo CB. Un nuovo CB, sì, perfetta. E allora, ci fa piacere che tu venga a fare parte della nostra famiglia. Avanti, chi sei allora? Non lo so, non me ne ricordo perché io... Cioè, non è che sono nuovo, no, è già due mesi che sono entrato già tre volte, se posso parlare con voi va bene. Certo che vuoi parlare, ci mancherebbe altro, che c'è? Altro che... avanti Bruno, avanti, mi prendi. Ma sei una scena, Jimmy. Ma posso dire che sono un nuovo CB? D'altronde è vero, Se chiedi agli amici che sono frequenta, non mi hanno mai sentito. Infatti non ti ho mai sentito, per cui ci fa piacere che tu aumenti il numero di presenze qua in questa frequenza, ci fa piacere. vabbè, comunque, ottimo. Dai, hai cambiato il microfono, si vede, rispetto a quello dell'altro giorno, però, Così è, confermi? Allora, questo, adesso non so, perché io ho già quattro baracchini, ho girato già. Di tanto a tanto, quando mi dicono, non mi sentono male, io cambio baracchino. Questo in realtà è il primo baracchino che io ho usato, quando sono entrato anche in Giappone. E avevo un microfono normale, questo è un preamplificato, che però quando lo sollevo mi hanno detto che si sente male. Ma io ti sento bene, poi non lo so, evidentemente per la mia zona vai bene, poi per le altre zone non lo so. Adesso vediamo da Roberto, anche lui già in una zona ottimale, dovrebbe sentirsi bene. Avanti Roberto. Sì, no, ma l'avevo riconosciuto dal segnale a Bruno quando ha detto che era Eugenio, ci siamo sentiti un paio di volte. Il segnale tuo è quasi 9:20 da me, Bruno, ti ascolto perfettamente, radio pulita, chiara, non posso dire niente di negativo. Avanti ancora a te. Ok, grazie. Adesso sono in macchina, perché a casa non esco molto bene, a casa ho dato qualche volta di qualche minuto sul balcone, per ripeto, che non so più, non riesco a fare. Adesso sono in macchina e sto usando, che ormai questo è il quarto, mi hanno regalato un altro baracchino ancora, quello lo devo ancora attaccare. Infatti adesso io, quando avrò deciso quale tenere, gli altri regalo a chi ha il coraggio di entrare in frequenza. Ci sono giovani che vogliono entrare in frequenza a farci compagnia, io regalo il baracchino. Fatti giù. Ok, Bruno. Sì, beh certo, ogni tanto se ce l'hai bisogna anche cambiare. No, ma io, ripeto, ti sento bene, anche quando sei a casa ti sento bene, anche con quell'antennino che è a casa, evidentemente per la mia zona non è altro il segnale non può essere più di 8, però la radio arriva bene, tranquillamente, non c'è problema. Per cui va bene, adesso sei in macchina, è meglio così, allora ti fai un girettino. Vai a sfruttare la lanciata giornaliera, nel senso che domenica eravamo con lo Campari, adesso siamo con l'Arancio, dunque la lanciata. Avanti dov'è? Ciao Bruno! Ehi Gaghi! Chi tu? Ma di che vuoi fare Natalino? No, ti bari, gioco Natalino! Buonasera a tutti! Mi dovete scusare, ma stavo facendo cosa e non ho potuto riprendere. Natali, quella ragosta che stavi mangiando, guarda che ti rimane sullo stomaco, togli la buccia e... perché già lo sai che cosa fa la ragosta, quando ti la senti così vuol dire che stai mangiando. E togli la buccia. E gli hanno la mangio pure la buccia, là. Fai sta buccia senza buccia. Riprendi Giulio, fai girare per l'amico. Ok, Boccazzi, abbiamo sentito Boccazzi Natalino. Ciao di nuovo Natalino. Vabbè, dai, tu lo so che purtroppo sei costretto ogni tanto a interrompere perché per ovvie ragioni, però ci fa piacere quando ci sentiamo, ma almeno per, a me mi fa molto piacere. Avanti, vabbè. Ehi, hey, ciao Natalia, ti ho richiamato poco fa, ma ti sei allontanato. Dove ti trovi, Bruno? In che zona sei? Allora, adesso sono, diciamo, in linea d'aria. Filigheddu, la parte alta però, una strada che va molto in alto in campagna. Stavo dicendo un messaggio veloce per Giulio. Ho trovato Antonio Falcone, Norton. E ci siamo incrociati, l'ho fermato, non ci siamo potuti parlare perché eravamo in mezzo al traffico. Gli ho detto: Antonello, stasera ti chiamo perché ti devo chiedere una cosa. Hai capito, Giulio, cosa gli devo chiedere? Sì, ho capito, di quello che stavamo parlando l'altro giorno. Speriamo. Io l'ultima volta che l'ho incontrato al mercato a Sassari, no? Ma non aveva nessuna intenzione. Speriamo che cambi idea, e chi lo sa, anche fratello ce l'ha il baracchino dell'ex suocero, o meglio del suocero che purtroppo è deceduto, e ha anche un bel tanne più tre, però non lo usa. Infatti gli avevo detto: ma non vendi a me il microfono? No, dice, un ricordo, dice, di mio suocero. No, assolutamente no. E vabbè, pazienza, lo capisco, perché giustamente è così. Vabbè, dai, riprendi ancora e fai girare tu dopo, Bruno. No, perché col valvolare per la 27 va bene, io l'ho avuto ai tempi del Bruno, non è splatta le cose, qua bene, ce n'è poco. Comunque, io questi giorni devo andare a frugare a casa di mia sorella, tu già lo sai, che ci modulava da lì, sperando che la roba, perché essendo un radioamatore, chissà quanta roba avranno già dato via, magari i figli. Io non ci ho pensato ad andarci subito, lui aveva tante apparecchiature, essendo un radioamatore. Devo andare a vedere se c'è qualcosa che mi posso portare via, perché so che hanno messo tutto dentro gli scatoloni e hanno messo tutto in un angolino lì. Per cui una di queste sere ci passo, magari qualcosa c'è, perché insomma, lui aveva anche molte apparecchiature. Avanti Roberto. Ehi, dunque, se c'è a Filigheddu sta arrivando una bomboletta, 9 più 20 qua, radio Super 5, probabilmente non sei coperto dalle parti mie, arrivi fortissimo. Giulio, quando ti arriva te, Bruno? Santiago Love mi sta arrivando a me, Bruno. In altura lì. Te l'ho detto, da quella zona, lì è un tiro di schioppola a te, il vino all'aria, guarda che le antenne si vedono, non c'è problema. Sembra che sia lontano, perché c'è da fare tutto un giro di strade per arrivarci, eccetera, ma in realtà no, e lì nell'aria è vicinissimo, lo sappiamo benissimo. Capita. In pratica cosa c'è fra te e lui? Il ponte che c'è su lì del Motorosello, poi siamo lì, metro più, metro meno, siamo lì. Bene, vediamo se prendere ancora Natalino. Natalino. Rimango in ascolto, dai, che devo mangiare per forza, io mi ho fatto l'insulina oggi. Già vi ascolto. D'accordo, Natalino, buona cena allora, dai, ci sentiamo. Capito, vabbè, lì non ce n'è problema, l'ostacolo non ce ne sono, tutti in altura. Capita, già lo credo, tu in alto, lui in alto, cosa c'è davanti? Niente. Forse qualche albero, ma niente di più. Già lo grido. Avanti, Bruno. Era una confusione, l'albero di Gariagia mi aveva piccato, invece è tutta di Banò, tutto l'invento. Natalie, mangia piano, chi c'è peggio di me, anche io purtroppo ho un grave problema che mi porta a mangiare ogni 2 ore, non sono rispetto agli orari, per me è una cosa bruttissima. Adesso ho mangiato un'ora fa, tra un'oretta io per cominciare a prendere un buco. Avanti, che riprendo io. Che baracchino stai utilizzando, Bruno? Oh, questo è proprio uno di quei baracchini, non dico usa e getta, però è un Intec, e mi hanno però piazzato questo primo applicato, che quando lo tiro su, mi faccio una prova, mi hanno detto che fa casino. Vedi, adesso l'ho messo a metà e mi hanno detto fa scarica. freccia tenendolo basso come adesso dovrei andare bene. Però allora a casa ho la capite, dovrei avere il 5024, tocca che non sono stato male con questo. Poi ho lo Zodiac e un altro magazzino che mi hanno regalato proprio un paio di giorni fa un amico, che non le faccio niente, alla fine dopo qualche giovane di buona volontà che ha il coraggio di essere alla presenza, comincio a regalare baracchini, così abbiamo più compagnia. Buonasera, c'è avanti. Danilo, buonasera a tutti. Ciao Robert. Ciao Danilo, ben sentito. Ho ricevuto quei messaggi, quelle cose delle antenne. Per una è per le cose, per le U ne ho vista, e poi l'altra però è una banda che è inutilizzabile. E 50 mega? 40 mega, cosa c'è scritto? 40 mega? C'è scritto 49,70, quindi la puoi usare per i 50 mega. Ah no, non l'avevo visto, pensavo fosse 40 mega se bu. Ah no, c'è scritto 49,70, per i 50 mega quella lì. Ma quella che mi hai fatto, scusate Monopulio, scusa Giulio e anche Bruno, quella che mi hai fatto vedere per le U, fa solo le U quella? Sì, 400-470. Eia, no, pensavo fosse una bimbanda, facesse tutti e due, vabbè dai, poi fammi sapere eventualmente il costo e poi vediamo. Perché sei un carrozziere, facciamo un pochino di vernici, da. Ah, conta vernici. Poi vado un amico valeniano e mi sentisse per qualche spigolo di armadio da fare, da rifare, lo diciamo a Giulio. No, Robè, già ci mettiamo d'accordo per quello. Ehi, vai Giulio. Ok, ciao Dani, ben entrato. Ho parlato con quell'amico, dice che quell'antenna lì lui ce l'aveva già e l'ha regalata, no? Non le piaceva o da lì, per cui pazienza. Tutto perché gli avevo mandato anche la fotografia e lui l'ha vista, quella Kipper si chiama, mi sembra, 27, quarto d'onda. No, lui vorrebbe qualcosa di più serio, insomma, ecco. Va bene, che magari al momento è in ascolto col portatilino, ma non ha modo di trasmettere in questa banda perché ha un problema l'antenna, per cui la sta sistemando. Va bene, ripeti ancora Dani e poi fai girare che c'è Bruno, vai. Sì Giulio, se vuole le costruisco anche una canna fresca. No, come vuole lui, io non gli posso dare quello che non serve. Ok, là, avanti Bruno. Mi aspetto un attimo che devo andare, non so parlare a dove sono. Riprendo io, grazie che ci sia nell'altro canale. Vabbè, casomai ritorna qua dopo Bruno, eventualmente. Sì, infatti, no, ci siamo sentiti anche poco fa e tutto questo cuticiglio è stato dato e me l'ha riferito come risposta. Va bene, dai, avanti Roberto. Ehi, aspetta un attimo di bianco se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti che vuole entrare in compagnia di Roberto, Giulio, Bruno che si è spostato e Danilo. Due secondi di bianco, se no riprendi tu Danilo. Ok, non c'è nessuno, abbiamo lasciato anche qualcosina in più. E quel link letto è Roberto? Sì, però sono un po' dubbioso di quella cosa lì, lo sai? No, è veramente me, no, ho parlato con gli amici miei, quelli di Cagliari, quel radioamatore di Cagliari che fa tutta quanta la roba dell'ambaradanno delle lezioni e mi ha detto che in quelle frequenze lì in poche parole non ci possiamo andare a parlare, ascoltare sì ma non parlare, perché ci vuole un nominativo, la stessa cosa come le frequenze dei radioamatori, la stessa cosa, devi avere un nominativo per andare a parlare con loro. No, sto parlando del fatto del nominativo, devi essere iscritto come associazione, te lo danno il nominativo come associazione, non persona singola, almeno ho capito così. No, non penso, perché se come associazione io sono già socio con Gruppo ERA Sassari, sono essere già stato avanti io. Invece non è così. Aspetta, c'è qualcuno che chiama e poi... Avanti, chi chiama qua su 10? Avanti. Oh, vabbè, non ha gana. No, c'è scritto, almeno ho letto così, dice, si può fare anche un'associazione di 3-4 persone, non c'è bisogno di metterne un bel. E ti danno il nominativo a quella stazione lì, a quell'istituto, a quella... come si chiama, società di CB. No, Robè, c'è scritto, per aprire un'associazione, cosa ci vuole? Il tipo gli ha scritto, ci vuole 3-4 persone minimo, poi roba di documenti e balle varie, però quello lì è per aprire un'associazione, per avere un nome, come si chiama? Per aprire dei nominativi, per babbo, già mi hai capito, per avere un nominativo. Ehi, vai giù. Ok. Sì, ma guarda che praticamente in realtà i CB di Sassari ce l'hanno già un nominativo di associazione, solo che era una cosa che era nata un po' di anni fa da me, però poi non è mai andata avanti. Però non esiste ancora, esiste ancora, adesso non mi ricordo come era chiamata, la verità, se non sul computer c'è sempre questa iscrizione così come società nascente, e invece poi sai come tutte le cose di Sassari, si inizia una cosa e poi non si porta a termine, purtroppo è andata male, pazienza, dai. Adesso non mi ricordo, tu te la ricordi quella storia di che aveva promosso Antonio Grode o Roberto, te lo ricordi com'era il nominativo dell'associazione? No, guarda, non me lo ricordo, era Nikola Tesla, si chiamava l'associazione Nikola Tesla, però poi se l'ha dato nominativo non lo so. Sì, ma aveva un'associazione CB, forse Sassari, adesso non me lo ricordo, la verità, non me lo ricordo, per cui non... anche perché non ho più guardato quel sito, ma sono passati anni, per cui non lo so. Vabbè, comunque, se che c'è l'intenzione praticamente di formare una nuova associazione, Dani, sarebbe una cosa bella a riguardo della radio, di qualsiasi pure frequenza, eccetera. Avanti, Dani. No, io ad aprire un'associazione non avevo neanche per l'idea, Giulio. Comunque per un nominativo sì, quello per il nominativo sì. Almeno posso parlare tranquillamente in tutti quanti gli 11 metri, senza problemi e senza rischio di niente. E che è questo rumore? Cos'è questo rumore così strano? Santiago basso basso, Santiago 2, però c'è un rumore, Robè. Cos'è? Da te c'è il rumore? Boh, non so Antonio, c'è uno Santiago 7 qui a Roma e poi non so, poco fa c'era uno Santiago 9 che stava chiamando, però poi vediamo un po', lo facciamo rientrare, avanti chi vuole entrare? Boh, forse propagazione, lo sento basso basso, però non so se propagazione cos'è. Anche io sento una specie di sirena ogni tanto, ma Santiago 2, per cui non, vabbè, niente da dire, dai. Sì, ho capito Dani cosa intendi dire, però diciamo che sarebbe bello, sarebbe bello, purtroppo ripeto, qui a Sassari siamo un pochino poco decisi a fare qualcosa di importante, è sempre stato così, ma in tutte le attività, non solamente in campo di radio, ma in qualsiasi cosa, anche a livello sportivo, a livello di associazione, qualsiasi hobby. Vabbè, comunque, tutto è possibile. Avanti, Dani. Sì, Giulio, quel rumore con la trombettina, quella l'ho sentita anche io, sempre a 2-3 di segnale. Comunque di stazionare roba io sono quasi a zero, oggi. Oggi di interame stazionale, di QRM, zero. No, sì, Giulio. Io mi vorrei fare questo nominativo. Poi devo guardare anche in quale gruppo andare, perché ce ne sono parecchi e non... e molti costano anche un bel po' di più, la quota è molto di più, ce ne sono certe che costano poche, certe che costano molto. Infatti a Roberto gli ho inviato il link ieri, anche a Ho capito da lì. Sì, ma sempre quello, anche l'associazione ADI di Sassari e lavoratori accettano persone anche S-WPL, non c'è problema. Mi sembra che la sede sia via Pasubio, se ricordo bene, poi da quelle parti lì, insomma la parte alta dei Cappuccini, mi sembra che sia. Poi adesso basta guardare al computer, c'è qualche notizia che ti informa meglio. Sì, accettano anche quelli qui a Sassari, l'associazione degli amatori Ari di Sassari. Avanti, vabbè. Sì, quello sì, me l'ha detto anche Marco. Fabrizio è il presidente di quell'associazione di lì. Però volevo dire, Dani, di quel nominativo forse c'è la Claudio Di Muros, perché lui quando si presenta in banda laterale, lui dà sempre questo nominativo, dice 1, 5, non so che cosa, circuito di non so dove, di Sassari. Sì, che l'ha ruggito, noi stavamo parlando a Montighieri insieme, in banda laterale. Infatti lui c'ha 165 e poi tutto quanto il resto dietro. E infatti io voglio parlare anche con lui, magari riesce a darci qualche dritta lui per andare a fare questa roba qua. Lui si sta appassionando soprattutto in ascolto, e poi questi DX in banda laterale, ho visto ogni giorno pubblica roba, tutti i collegamenti che ho, lui c'ha tempo per farlo, la mattina, la sera, tutti gli orari, poi la notte si mette fino a tardi, all'una, alle due di notte a ascoltare, a fare, è molto appassionato lui. Ma dove è? Su Facebook? Sì, c'è lì l'amicizia, già te la dà. Cosa? Il cognome lo sai? No, inviamolo sul cellulare. Allora, dopo te lo mando. Come Pabiru il cognome? In Sassari giù. Eia, il nome già lo sai. C'è la faccia sua con una radio, prova lo trovi subito. Ok, dai, ce lo cerco. Eia, mette tutti usando. L'hai visto tu Giulio a cosa? A Claudio? No, non l'ho mai visto. No. Io ci bazzico poco su Facebook, anzi niente del tutto, perché non ho il sito, per cui non lo so. Poi tra l'altro non ho più nemmeno il numero di telefono, meglio ho sempre il numero vecchio del padre, ma loro l'hanno cambiato e lui aveva detto di farmelo dare da qualcuno di voi, non c'era problema, Claudio mi aveva detto il numero nuovo, ma poi non è mai successo questo, perché ripeto, prima ci sentivamo sempre a ogni ricorrenza, tipo Natale, Pasqua, eccetera, poi invece loro hanno cambiato il numero e dunque io sono rimasto al buio, senza numero. Vabbè, pazienza, dai. Sicché lui si trova su Facebook, su questo sito qua, e beh, solo il suo nome basta, il suo nome e cognome basta, o robe. No, aspetta, del sito non lo so, lui è un utente di Facebook, scrivi il nome e cognome suo e ti appare solo, e ogni giorno vedo che pubblica dei collegamenti che fa con la radio nuova, con la più grossa, sta sempre facendo collegamenti, c'è la Germania, la Francia, il Belgio, Romania, poi ascolta anche altre frequenze e ogni tanto pubblica, qui sono c'è tante, no, proprio appassionato di cosa. Poi non so se c'è iscritto a qualche associazione, questo non lo so, però lui si presenta sempre con questo codice di numeri e di lettere, dice nominativo, CQDX, dice il coso, local di Sassari, credo che sia, non mi ricordo se sia 65 il local. Ho capito, forse 165, va bene, dai. Quando lo sento chiedo, mi faccio dare qualche spiegazione in più. Lui è molto appassionato, beato lui, per cui è anche giovane e ha tutta la volontà per studiare anche. Se lo fa, buon per lui. Vediamo un po', avanti Dani, sei rientrato? Sì, solo che lo sto cercando e non la trovo, finisce una marea. Aspetta, se c'è anche il comune, scrivi il comune pure. No, il comune non lo puoi inserire. Se scrivi nome e cognome, Muros non te lo fa apparire. Aspetta che provo col paese. Ah, sai, voglio vedere cosa ti c'è di particolare per entrare. Allora, dimmi giù. Tra l'altro lui deve avere una posizione invidiabile per quanto riguarda la propagazione, eccetera. perché riesce sempre a collegare paesi stranieri proprio praticamente quasi tutti i giorni, quando c'è la propagazione ovviamente. Deve essere molto molto una zona molto molto adatta per fare questi collegamenti così. Sì, no, ma ascolta anche radio private lontane, io ho un'antenna dedicata in alto per ascoltare, è quella dell'acustica che arrivano, diciamo, difficile da ricevere, ho detto prova, perché l'altro giorno ne ha fatto sentire una, gli ho detto guarda, se prendi quella, prova a vedere se prendi anche quest'altra, gli ho dato una frequenza, mi ha detto no, la prende male, ma molto male, però è riuscito a tirarla fuori, considerando che non ha un'antenna magari dedicata per il coso, però è riuscito ad ascoltarla, Radio Nostalgia, Corsa FM, un'altra che non mi ricordo, 632, non mi ricordo come si chiama, frequenza corsa, boh. Comunque, poi vedo che lui, quello che riesco ad ascoltare è radio, diciamo, di altri generi, perché lui con le montagne ti coprono tutti i segnali delle radio private, perché il problema nostro qua in città è che siamo saturi di segnali di radio private, qua infatti io ho il QRM a 7 ed è tantissimo, devo mettermi un filtro 8808, quando ho tempo me lo prendo, così mi attengo tutte le radio private, se no QRM è troppo alto. Beh certo, quello è vero, Robert, quello è vero. Sì, ho capito, ma è sempre quello, tutte le radio del mondo, ti ricordi quel sito che ti avevo mandato io, Radio Garden, lì ci sono dall'acustica, dappertutto, tutto il mondo, dove vuoi ascoltare, ascolti, io ce l'ho addirittura sempre nel telefonino, quel sito Radio Garden, poi ci sono i vari puntini, tu sintonizzi sopra e hai tutte le radio private, eccetera. Molto molto bello, molto, un sito molto bello, anzi addirittura me l'avevo anche scaricato sul computer, quello c'è il computer che è nel telefonino, te lo ricordi? Sì, mi ricordo bene, però ce n'è un altro, ti ricordi il primo che mi avevi fatto vedere tu, dove c'è quel ricevitore remoto Netherland, finisce in L, dove ti puoi collegare a un sito che ti può ascoltare tutte le radio, te lo ricordi? Sì, aspetta, com'era quello non me lo ricordo più, com'era il sito, vabbè, adesso stavo pensando al TV Tap, no, ma quello lì è per il tablet, per la televisione, eccetera. Non me lo ricordo più com'era, radio, no, non me lo ricordo la verità, ma già lo trovo, perché metto playlist, metto e guardo, poi lo trovo, quel sito lì o Robè. SDRNL. Ah ecco, SDRNL, sì. Ma io al computer guardo sempre web sdr.com, mi sembra, sì. E vedo un po' di, cioè ascolto radioamatori un po' da tutte le parti del mondo, soprattutto quelli italiani chiaramente, e tutte le frequenze, tutto indistintamente. No, non c'è problema, in 10, in 20, in 30, in 40, in eccetera eccetera, e 80 eccetera, solo in 160 non ho mai sentito niente, però fino ad 80 metri riesco a prendere, sempre col computer. Aspetta, se non è entrato Danilo ti dico, se entri su quello lì, SDR, web SDRNL, se entri scan, c'è sotto dopo la pagina, ti guardi tutte le stazioni dal mondo, puoi ascoltare, per dire, metto Sassari e mi dà i punti di ripetitore di Sassari, c'è Monte Oro, Monte Alvario, ci sono tutte le frequenze, tutte le radio, per dire RDS, ti dice postazione, potenza irradiata, altezza del ripetitore, ti dà tutto quanto, poi ci clicchi sopra e ti dà il diagramma di radiazione della stazione, dopodiché puoi anche ascoltarla, ci sono tutte le radio di tutto il mondo, io per dire quando voglio il mio divertimento, qui c'è a New York, cosa è occupata la banda 8808, ci sono l'elenco di tutte le frequenze a Londra, a Milano, e ci sono le potenze di tutti i trasmettitori, infatti io quando a me parliamo di potenze le guardo da lì e c'è scritto per dire RDS, ponte trasmettitore di Monte Oro, altezza, c'è scritto l'altezza del suolo dell'antenna, potenza e radiazione, c'è il diagramma tutto. è una cosa bellissima, di tutte le radio, sia FM, AM e più DAB e televisione, ci sono le potenze di tutto il mondo. Vedi, tu puoi vedere, e ho scoperto che Sassari esiste, Sassari da un'altra parte del mondo, non c'è solo qua in Sardegna. Infatti ho detto che ma c'è un altro, mi sembra che sia, non vorrei dirti una fesseria, se in Africa o dove, e c'è una città che si chiama Sassari. Ah, l'ho capito. Eh beh sì, evidentemente è bello. Sì, ma anche con quella sigla lì, SDRNL, si può comprare anche un ricevitore più cinese che intorno ai 75-80 euro prende tutto quanto, prende. C'è anche lo spettro delle frequenze, ti fa vedere tutto quanto. Un amico qui di Sassari se l'ha comprato, infatti mi aveva mandato anche la foto, mi aveva mandato, e anche la ricezione mi aveva mandato, e prende tutte le frequenze, bello, molto molto bello, con tutto lo spettro anche, tra l'altro, di qualsiasi frequenza che sintonizza. Allora, io ce l'ho lo stesso quel pennino, però no, che colleghi l'antenna, però non riesco a farla andare. Posso interrompere un attimo? Certo. Allora, io c'ho quello che stai parlando tu, è quello che c'ha proprio il display, è un tipo una scatola di pacchetto di sigarette, e c'è il display, tira tutto lo spettro, la cascata del segnale modulazione e tutto, e l'ho preso proprio sabato scorso senza allargarci molto. La salata me lo sono preso da un amico, non facciamo i nomi, però ce l'ho già, perché era una cosa che mi devo comprare, lui se l'ha comprato, poi alla fine ha detto non lo sto usando, e me l'ha dato, bellissimo, perché funziona con tutti i tipi di modulazione, fa da 0 a 200 MHz, e poi c'è anche l'applicazione per farlo salire su, ma sinceramente non mi interessa, c'è lo spettro, tutto bello bello bello, con la batteria ricaricabile, e più ci sono le classiche chiavette, però bisogna stare attenti con le chiavette, perché se non mettete, se dovete ascoltare altre frequenze e non mettete un filtro FM, non ascolti niente, a meno che non c'è un'antenna dedicata e ogni volta cambi l'antenna, se no non pigli proprio nulla, prendi solo disturbi, perché queste FM qua sono troppo forti. E esiste un'antennina che te la colleghi, che è questo? Danilo mi sta mandando. Vabbè, riprendi tu Danilo. Ma vai, continua a parlare tranquillo. No, io sono appassionato di radioascolto, ma non da adesso, da tanti tanti anni. Questa qua è un giocattolino, infatti me lo porto appresso col camper, eccetera, eccetera. È bellino perché c'ha lo spettro e ti vedi tutta la banda, per dire, da lasci lì tu la larghezza di banda, fai 8808, per dire. E poi c'è, quando sta trasmettendo il waterfall, diciamo si chiama la cascata, ti fa vedere il tipo di emissione, vedi una specie di coso a colori, un grafico a colori che scorre, è interessante anche quello lì. Qui c'ha la sua antennina dedicata e ti posso dire è carino come coso, c'ha tutti i modi di emissione con tutti i filtri, il DSP c'ha anche digitale per i disturbi, e ti posso dire funziona discretamente, molto molto meglio di altri giocattolini che ho visto. Quello con la chiavetta bisogna stare attenti, di lì è molto pratico, esperto Claudio Damuros, perché lui ne ha diverse di chiavette e ho visto che lui si diverte parecchio, ne avevo una io, però diciamo non è di nuova generazione, c'ha i problemi per l'installazione, e poi me ne aveva prestato una al padre di Riccardino, ha funzionato per un pochettino e poi abbandonato, però sono molto interessanti perché l'attacchi al computer, però devi avere il computer, mentre con questa scatoletta che dico io non hai bisogno di niente perché c'hai un display piccolino da 3,5 pollici e ti vedi tutto di lì. Avanti a te di nuovo Giulio. Ok, vabbè, sì certo, infatti adesso lo sto anche guardando sul computerino, lo sto guardando adesso, te lo spedisco, vediamo se è quello che hai tu. Adesso te lo mando subito, lo sto cercando il tuo corso qui, eccolo qua, ti ho trovato, vediamo, e beh, sono fatti, ecco. Penso di avertelo spedito, Robè, adesso ti arriva e lo vedrai,